664. Budino alla napoletana. Cuocete del semolino in 3 bicchieri di latte, badando che non riesca troppo sodo. Ritirato dal fuoco, dosatelo con zucchero, una pressa di sale e l'odore della scorza di limone. Quando non sarà più bollente, aggiungete 3 rossi d'uovo e 2 chiare, mescolando il tutto ben bene. Prendete una teglia di rame di mezzana grandezza, ungetela col burro col lardo e rivestitela di una sfoglia di pasta frolla grossa uno scudo. Metà dose del numero 589 ricetta A può bastare. Versate nella teglia 1/3 del semolino e spargete sopra il medesimo, a qualche distanza l'uno dall'altro, dei pezzetti o cucchiaini di conserve di frutta diverse, quali sarebbero lampone, cotogne, albicocche, eccetera. Sopra questo primo strato ponetene un secondo ed 1/3, sempre rifiorendoli delle dette conserve. Ricoprite il di sopra del budino con una sfoglia della stessa pasta e inumidite gli orli con 1 dito intinto nell'acqua, perché si attacchino fra loro. Fategli qualche ornato, doratelo con rosso d'uovo e cuocetelo al forno. Quando lo sformate, spolverizzatelo di zucchero a velo e servitelo freddo. Alle conserve si può sostituire uva sultanina e candito a pezzetti.